vecchia balera di periferia, dove ho passato la mia gioventù. Là ho incontrato Maria, il mio primo sogno d'amore, prima illusione della vita mia. Tra le tue luci io mi sentivo un re, là io stringevo Maria e Maria non capiva perché. Là ho imparato che bere non basta per dimenticare. Cara vecchia balera, i miei 20 anni appartengono a te. Vecchia balera di periferia, dove ho passato la mia gioventù. Là ho perduto Maria e mai ho capito perché. Vecchia balera di periferia, dove ho passato la mia gioventù. Là ho perduto Maria e mai ho capito perché.